si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Ed eccoci qua, una domenica mattina un po' uggiosa a Milano, ma non importa, noi siamo felici e festanti. Buongiorno Carlo. Buongiorno Laura, è vero, è un po'... È bigia, vabbè. Ma così, va bene. A fondo è inverno, cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo sperare che sia sempre sole, anzi, dobbiamo augurarci che piova un po', visto le condizioni della, no, dell'aria delle nostre città. Quindi ben venga un po' di pioggia, come ci ha detto poco fa anche il nostro appuntamento con il meteo, abbiamo sentito. Oggi una grande giornata per il nostro personaggio della settimana. Oggi si gareggia per indovinare il personaggio della settimana. Fra poco Laura vi darà il primo indizio e poi vi daremo altri indizi e voi potete subito chiamare per indovinare. Chi indovina vince, porta a casa, esatto, due biglietti per la mostra Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano. Cosa bisogna fare? 800 24 00 24, prenotarsi per dare la risposta appunto e indovinare il personaggio della settimana, che come sempre ricordiamo diciamo il personaggio al maschile, ma non è necessariamente un uomo, può essere donna, può essere cosa, è qualcosa comunque che è accaduto o che ha a che fare con l'ultima settimana. No, quindi qualunque personaggio voi ci direte, noi vi chiederemo qual è la notizia legata a questo personaggio di quest'ultima settimana. Quindi preparatevi anche quella. Bisogna argomentare perché questo personaggio. Allora, diamo l'indizio, che dici? Certo, iniziamo subito, certo. Dai, così hanno tempo per prenotarsi. Il primo indizio è: fa una gran fatica. Quindi il personaggio della settimana fa una gran fatica. 800 24 00 24 per prenotarsi, ma anche per commentare gli argomenti della puntata, oppure c'è sempre il 349 238 6666 per chi vuole scriverci. Carlo, degli come SMS. Esatto, degli SMS, sì, dei WhatsApp, dei Telegram, c'è un po' tutto. Ci dimentichiamo di dirlo, ma insomma lo diamo un po' per scontato, perché Radio 24 ha questo di bello: ha un unico numero, non te ne devi imparare 200 per ogni trasmissione che va in onda. Questo e vale sembra... sempre SMS e WhatsApp. A parte che da Roma, dove hanno problemi a vedere i WhatsApp, devono guardare il Telegram, vabbè. Comunque, questi sono problemi interni. Sono problemi, sì, interni, tutta un'altra storia. Quindi potete scriverci. Tu invece come hai passato la serata? So che di solito tu il sabato sera leggi qualcosa di cui ci parli poi la domenica. Vero, penso che la buona notizia è proprio che esistono libri che si leggono in 100 minuti. Anche se va detto che essere leggibili nell'arco di 2 ore ovviamente non è un valore di per sé per un libro, perché possono esserci capolavori per cui servono 14 ore di lettura, oppure libri di 32 pagine che fanno serenamente schifo. Quindi non è che i libri brevi siano per forza buoni. Però penso che insomma, quando leggo un libro che si inizia e finisce nel tempo di un film o di un paio di episodi di una serie, credo valga la pena segnalarlo se è bello il libro, perché spesso uno ha sì voglia di leggere, però poi è stanco, dopo cena c'è giusto lo spazio per un film o per internet, oppure al massimo un documentario, o poi semmai mi addormento sul divano, perché in caso a quel libro bellissimo che sogno di leggere da un anno, ma che cosa inizio a fare un libro di 513 pagine alle 9 di sera di un mercoledì, no? Lo leggerò in un weekend, oppure in quest'estate, bravissima. Insomma, io credo che sapere che esistono e avere in casa libri belli che si leggono in un paio d'ore possa essere molto utile, oltre che sano. Quindi vi invito, anche se anche voi avete dei libri che si leggono brevemente, a segnalarceli. Io ho letto Piccoli furti, è scritto e disegnato da Michael Cho, spero di pronunciarlo giusto, lui è coreano però da quando è molto piccolo vive in Canada, è una graphic novel edita da Rizzoli Lizard. La quarta di copertina recita: l'America dei sogni infranti in un fulminante racconto per trentenni fuori posto. Bellissimo. Esattamente, ed è così, ed è molto bello. È una storia molto semplice, nulla di sconvolgente, ma è una di quelle storie di formazione che si è sempre felici di aver letto, perché ciclicamente è giusto ricordarsi che prendere la propria vita in mano non solo si può fare, ma spesso è doveroso, è vitale, è una questione di vita o di morte. E poi, appunto, siccome questa è una graphic novel, i disegni vi possono piacere o meno, dipende dal vostro gusto anche personale, ma credo che questa trama non complessa permetta di godere appieno ciò che in fondo sono poi le graphic novel, che sono dei racconti cinematografici in cui sei tu lettore a scegliere la durata delle inquadrature, non il montaggio, quello è dato dall'autore, ovviamente, ma la durata delle inquadrature, il tempo in cui soffermarsi su ogni immagine, quello sì, quello lo sceglie chi legge. E dunque alla bisogna si può anche accelerare dove si preferisce, così da non andare a dormire troppo tardi, ma con la soddisfazione di averlo letto tutto. Che bello. E diamoci da fare, dai, leggere poi comunque è sempre un piacere, un momento di formazione importante, è una crescita. E tra l'altro la prossima ospite che abbiamo ha lavorato molto sulla lettura per introdursi nel nostro paese. Si è resa conto molto giovane di questa cosa che stai esattamente dicendo tu, che leggere è importante, che spesso magari quelli che vanno bene a scuola hanno letto parecchio. Esattamente, diamo il benvenuto a Giada Zhang, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, CEO del Mulan Group è un gruppo cinese che si occupa di forniture per i supermercati, parliamo di prodotti alimentari, ma non è tanto di questo la ragione per la quale abbiamo chiesto la sua presenza oggi in trasmissione, quanto perché finalmente questo Capodanno cinese è stato celebrato. Siamo entrati nell'anno del topo e ci faceva sapere un po' come la comunità cinese in Italia l'ha festeggiato, come avete trascorso la serata. Sì, allora Capodanno cinese proprio ieri era il primissimo giorno dell'anno per noi, quindi un giorno importante perché entriamo finalmente nel tanto atteso anno del topo. Ma quindi, scusami, avete festeggiato venerdì notte per arrivare a ieri o avete festeggiato stanotte per arrivare a oggi? Abbiamo festeggiato venerdì notte per arrivare a ieri. Perfetto. Però poi il festeggiamento dura una settimana intera si conclude con la giornata delle lanterne. Quindi per una settimana intera in questo momento in Cina tutto è fermo perché tutti sono a casa a festeggiare. Quest'anno purtroppo proprio a casa, perché ci sono tante città che sono costrette dall'allarme influenza a stare lì, insomma, ferme, no? Quindi sì, purtroppo quest'anno è così. E voi invece non avevate questa limitazione, quindi forse siete riusciti un po' di più a fare comunità, a visitarvi, andarvi a trovare l'un con l'altro. Sì, tra l'altro adesso noi come comunità cinese festeggeremo il Capodanno cinese con tutti gli italiani in Paolo Sarpi, la famosa, diciamo, il cuore della Chinatown milanese, il 2 di febbraio alle ore 2. Ah, quindi possiamo partecipare, insomma, vedere un po' la conclusione di questa settimana di festeggiamenti. Dicevamo prima della lettura, io ho letto appunto in questa sua biografia che lei ha, una volta insomma inserita nel contesto italiano, si è resa conto che leggere per lei era molto importante per potersi introdurre, per poter avere anche un livello linguistico più alto, per avere voti migliori a scuola e quindi progredire. Concorda con quello che diceva così Carlo prima? Quindi. Sì, a un certo punto proprio mi sono chiesta, ma qual è la differenza che fa tra, diciamo, degli studenti che sono davvero bravi in gamba e studenti che invece magari lo sono di meno? E ho visto che l'unica cosa vero comune a tutti era quantità di tempo che passavano a leggere. Più si leggeva, più si aveva, diciamo, un lessico ricco per poter poi riuscire a comunicare bene ed essere degli studenti di un livello superiore. E da lì poi, come ha detto Carlo, proprio leggere anche delle piccole pillole, anche delle piccole, diciamo, concetti ci permettono di arricchire sempre di più il nostro bagaglio culturale. Posso dire che hai un italiano straordinario, perché ricordiamolo che sei cinese e che conosci cinque lingue. Questa è la radio, quindi non si può vedere, diciamo, che sei cinese, ma noi lo garantiamo nonostante il tuo italiano. E mi ha fatto infatti piacere quando ho visto che hai detto no, ho deciso da piccolina che bisognava leggere Manzoni e Verga perché volevo imparare l'italiano. Ed è straordinario perché credo che ci siano molti italiani che si siano dimenticati di leggerlo, quindi siamo contenti che tu l'abbia letto. Ma che cos'è l'anno del topo? Cioè, che cosa cambia o se cambia qualche cosa? E poi devo anche farti una domanda vagamente personale, che voglio sapere che cosa succede se uno nasce il primo dell'anno, perché ieri era anche il mio compleanno e quindi ho scoperto che è in contemporanea. Davvero era il tuo compleanno? Sì, signori. L'hai e quindi tenuto nascosto, però. Beh, mi sembra corretto. Però volevo sapere se c'è qualche cosa che mi può portare bene essendo nato il primo dell'anno cinese. Allora, diciamo che la primissima cosa da dire è che in Cina e in Italia si celebra il nuovo anno in date diverse. Questo perché? Perché la prima segue il calendario lunare, quindi la Cina segue il calendario lunare, mentre quello italiano segue il calendario gregoriano. Ah. Perciò la Cina ogni anno la data proprio del Capodanno cade in periodi diversi. È una festa mobile, come la Pasqua, vi rispondiamo con la Pasqua. Bravissimo, noi. Bravissimo, quindi per noi corrisponde generalmente una data tra gennaio e febbraio. Sì. Quest'anno è l'anno del topo, cosa significa? Noi abbiamo, invece che i 12 segni zodiacali che avete anche voi ogni mese, noi abbiamo 12 zodiacali all'anno, perciò un anno intero rappresenta un segno. Quest'anno si è appena concluso il segno del maiale, entriamo nell'anno del topo, perciò per un anno intero il festeggiamento è il topo. Tanti mi chiedono, ma perché Giada sono 12 anni invece che 12 mesi? Perché questi animali invece che altri non sono gli stessi magari quelli che abbiamo noi nell'oroscopo italiano? Ma si riferiscono a delle costellazioni questi animali, no? In realtà no, si riferisce a una leggenda molto carina che narra che Buddha, percependo che la sua vita terrena stava per concludersi, ha chiamato a raccolta tutti gli animali, ma soltanto 12 hanno ascoltato l'appello e sono venuti a porgli il saluto. Questi animali quali sono? Il primo ad arrivare fu proprio il topo. Il topo riuscì ad arrampicarsi sopra il dorso, saltando sopra agli altri animali, ed è arrivato il primo a porgere il saluto. Poi a seguire il bue, la tigre, il coniglio, il drago, eccetera, eccetera, fino all'ultimo il maiale. Perciò il Buddha decise di premiarli per la loro fedeltà e quindi ha chiamato ogni anno del ciclo lunare il nome di ciascuno di questi 12 animali. Rispettando anche l'ordine. Ma quindi questo è praticamente un inizio dell'inizio, perché non solo è anche il primo segno questo, perché se il maiale è l'ultimo arrivato, il topo è il primo, quindi chiudiamo. Quindi inizia un ciclo di 12 rinizia anni. Inizia un ciclo. Infatti la cultura cinese augura a tutti proprio di riflettere molto sulla nostra vita, su quello che facciamo, e di dividerlo in cicli di 12 anni. Ogni 12 anni dovremo un attimo riguardarci indietro e capire veramente quali sono i prossimi obiettivi dei prossimi 12 anni. Noi spesso magari lo guardiamo molto a livello breve, quel cosetto short term, guardiamo soltanto quest'anno rispetto all'anno prossimo cosa vogliamo fare. Però alla fine i veri obiettivi si pongono a 12 anni e da lì poi si va indietro e si creano mini obiettivi da un anno. È molto bello. Beh, è una prospettiva più lunga, certo, delle cose, un po' più ampia anche. Esatto. Siamo purtroppo in chiusura, ma quindi direi che se uno nasce il giorno, cioè il 25 gennaio, e nasce esattamente il giorno in cui inizia il ciclo dei cicli, cioè inizia un nuovo ciclo, Carlo, devi quanti yen qualcosa. Si porta a casa, così per dirla, visto che vieni anche dalla Bocconi? Quanti cose si porta a casa? Yen? Sì, ma va bene anche euro, va bene. Allora, lì dipende un po' da quando siete fortunati voi, nel senso che invece che noi regalarci dei regali veri e propri, come si fa magari a Natale in Italia, sì, noi regaliamo la cosiddetta busta rossa. All'interno della busta rossa ci sono proprio dei soldi. Quindi i familiari, gli amici regalano a tavola la famosa busta rossa e a seconda un po' della fortuna che avete vi portate a casa più yen o più euro rispetto ad altri amici. Porca miseria, la prossima volta vengo alla festa, voglio la busta rossa. Ma c'hai ancora tempo, il 2 di febbraio ti presenti e dici io vorrei festeggiare anche il mio compleanno che è appena trascorso. Grazie Giada, buona giornata. Grazie mille, alla prossima, mille, Giada Chang. Grazie, abbiamo la viabilità, poi parliamo di pellet. Si può fare. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tanto aspettato momento del pellet. Dalla settimana scorsa ci trasciniamo questo argomento: il pellet inquina, sì o no? Fa male alla salute, fa male all'ambiente, a cosa? Non fa male a niente, va benissimo così com'è. Racconta... Non è la colpa del pellet, bensì delle stufe. Esatto, e via dicendo. Ma racconta come nasce questa cosa, che la trovo molto bella. Che questo... hanno che settimana scorsa ha chiamato un ascoltatore da Pordenone per intervenire sull'inquinamento atmosferico e parlava in maniera negativa dell'uso del pellet. Poi io l'ho interrotto perché c'era la viabilità e sono stata tacciata di essere al servizio delle multinazionali perché gli ho tolto la parola e lui aveva delle cose da dire. Ma il tema, come promesso, insomma, lo riprendiamo, e lo riprendiamo con una esperta che è Michela Zanetti, che è ricercatrice in tecnologia del legno presso l'Università di Padova. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci fa tanto piacere affrontare con lei questo tema, perché ultimamente poi con il problema dell'inquinamento atmosferico nelle nostre città è tornato alla ribalta. Quanta colpa hanno le stufe a pellet nella presenza di polveri sottili nella nostra aria urbana? Ebbene, parliamone con lei. Insomma, mi sembra che questo... E fughiamo, anche perché fughiamo, su questa materia si raccontano un sacco di pellet. Allora, i pellet, intanto, per chi non lo sapesse, sono come li vogliamo descrivere? Non sono sono come dei vermicelloni. Sono dei cilindretti di legno. Attenzione, che di la legno. Sentiamo male, perché non so se può raggiungere una finestra, un punto in cui si sente bene. Adesso mi sentite meglio? Proviamo. Sì, è un telefono allora... che va a pellet, questo, mi sembra. Sì, a casa mia. Allora, i pellet sono dei cilindretti di segatura di legno compresso e densificata che vengono cosiddetti utilizzati nelle stufe e caldaie domestiche, e fanno parte di quelli che sono chiamati biocombustibili solidi. E sono stati molto incentivati negli ultimi anni. Sono stati molto incentivati e anche giustamente incentivati, perché il pellet è un biocombustibile fatto da una risorsa rinnovabile che è il legno, e rispetto ad altri biocombustibili magari della stessa famiglia come il cippato o la legna da ardere, presenta molti vantaggi. Ha una densità elevata, non contiene tanta umidità, questo incide sul potere calorifico, quindi ha una resa anche di combustione molto buona, e inoltre è disponibile sempre, si vende in sacchi da 15 kg, quindi è facilmente stoccabile, è veramente un prodotto, secondo me, che è facilmente utilizzabile in un'abitazione. Però inoltre, c'è chi dice che inquina sia produrlo il pellet sia bruciarlo. Allora, qualsiasi processo industriale di produzione di qualche prodotto inquina. Certo. Però se noi consideriamo che paragoniamo per esempio il pellet a un'altra forma di energia che è la più utilizzata in Italia, che è il metano. Diciamo che gli apparecchi domestici a pellet o a biomassa in generale in Italia rappresentano il 14,5%, il metano il 71%. Sì. Allora, per produrre il pellet il processo è meno complesso di quello che è la produzione del metano. Non andiamo a incidere in risorse non rinnovabili come il petrolio, quindi non c'è sfruttamento di risorse non rinnovabili, perché parliamo di legno, quindi una risorsa rinnovabile. Per quanto riguarda invece l'inquinamento prodotto dalla combustione, bisogna considerare naturalmente il binomio biocombustibile e apparecchio di combustione. È l'apparecchio quindi che a volte crea problema. Sì, però vi do una buona notizia. Dai. Allora, dal gennaio 2019, per ottenere gli incentivi fiscali, quali per esempio il conto termico, esiste una certificazione, le caldaie, le stufe devono essere certificate. E la certificazione serve proprio a garantire che le emissioni prodotte da questi apparecchi rientrino nei limiti imposti dalla normativa. Sì. Se okay. A questo sì. Uniamo anche la qualità del pellet, perché esiste anche una certificazione del pellet. Anche la certificazione del pellet è sì, anche perché deve essere bisogna stare attenti alle foreste dal quale proviene, no? Quindi devono essere foreste seguite, certificate, certo, se no andiamo anche, a fare dei danni. Anche quello, c'è anche quello sicuramente, però il pellet viene prodotto anche molto da sottoprodotti della lavorazione del legno, dalla segatura, per certo. Esempio il pellet di abete rosso spesso viene prodotto da scarti di lavorazione del legno che vengono ridotti in segatura poi per fare il pellet. Ma quindi è buono o no? Nel senso che ultimamente c'è stato il periodo in cui il pellet sembrava un toccasana e invece ultimamente si sta, da quello che capiamo, si sta dicendo che invece il pellet inquina parecchio. Poi c'è chi dice no, non è vero che inquina tanto, basta mettere dei filtri molto buoni. Com'è la questione? Nel senso che anche dalle sue parole direi che è soddisfatta del pellet. Io sì, sì, sono soddisfatta e io consiglio personalmente di acquistare un prodotto certificato che viene sottoposto a rigide analisi fisico-meccaniche e chimiche che praticamente lo qualificano di buona qualità o di scarsa qualità. Per la nostra esperienza di laboratorio abbiamo analizzato centinaia di campioni di pellet commerciali. I pellet di origine legnosa rientrano sempre nei limiti imposti dalla normativa e quindi sono di ottima qualità che poi si ripercuote nelle emissioni ridotte e quindi nella qualità dell'aria. Mm. Quindi ma comprare, senta, sì, essere prego. Consapevoli di quello che si acquista è fondamentale. Io le volevo chiedere di chi ha un impianto più vecchio, no? Proprio una stufa più vecchia, lì come fa? Cioè, compra tutto buono, di buona qualità, e tutto certificato e così via. Deve verificare i suoi filtri però a quel punto, una stufa più vecchia, perché quelle del 2019 ci diceva sono a posto. Quelle sì, prima... Prima, adesso non è che proprio quella del 2018 non sia più buona, la certificazione è obbligatoria per avere gli incentivi fiscali dal 2019 e è stata fatta anche proprio per favorire lo smaltimento delle stufe di vecchia generazione per poterle sostituire con delle stufe più nuove. Però se già il pellet in partenza è di buona qualità, siamo già a buon punto. E queste stufe sono in grado di trattenere le polveri sottili, che è sì. L'altro aspetto di inquinamento? Sì, sì, sì. Trattengono particolato e altre forme di emissioni, perché non è soltanto il particolato il problema dell'inquinamento. Io credo... Trattengono il particolato e anche altre emissioni come... per esempio quelle legate agli ossidi di azoto devono essere certo. Sotto i limiti. Senta, io credo che dovremmo parlarne nuovamente, perché in realtà abbiamo appunto ricerca del centro studi della Camera del Commercio di Milano che dice che il pellet inquina di più del gas, quindi credo che dovremmo riprendere questo argomento, ma la ringraziamo molto. Intanto di queste prime risposte c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, Allora, Milano smoke free dal 2030, almeno questo è il progetto del sindaco Sala. Carlo, buongiorno, ben ritornato anche tu. Buongiorno Laura. Beh, ero in silenzio per questa silenzio notizia stampa. Perché proprio smoke free mi sembra francamente esagerato, ma comunque. Beh, è un progetto, poi vedremo come e se si realizzerà. Di certo, diciamo che Sala non sarà sindaco nel 2030, ecco. È difficile, a meno che non faccia qualche riforma anche lui, come accade in altri paesi. Che cioè smoke free e Sala full? No, non credo, non credo che sia possibile. Allora, Milano come la Svezia, diceva il Sole 24 Ore qualche giorno fa, quando il sindaco ha lanciato, ha proposto, ha fatto così, ha presentato il suo progetto. Perché nel paese scandinavo è vietato fumare anche in alcuni luoghi all'aperto, come le fermate dell'autobus per l'appunto, ma ci sono tanti altri paesi e tante altre città che hanno delle iniziative simili. C'è un'idea particolarmente così curiosa alle isole Hawaii e noi proprio con le isole Hawaii ci colleghiamo, dove c'è il professor Giuseppe Torri, docente di fisica delle nuvole alla Università appunto delle Hawaii a Manoa. Buongiorno o buonasera, ormai non lo so più. Allora, buongiorno per voi e buonasera da me. Allora, buongiorno. Buonasera a lei. Professore, noi abbiamo letto che nelle isole Hawaii, dove lei ci ha scritto poi effettivamente si fuma assai poco, c'è addirittura un progetto di portare a 100 anni il limite per la vendita delle sigarette. Cioè, se non hai 100 anni non le puoi comprare. È così? Esattamente, allora è in discussione questo progetto di legge all'interno dello Stato, secondo il quale l'età minima per fumare dovrebbe essere aumentata di anno in anno a scalare, e quest'anno dovesse passare questo disegno legge, l'età dovrebbe passare a 30 anni, l'anno prossimo 40 anni, su fino al 2023, quando l'età sarebbe 60 anni, e poi dal 2024 solo i centenari potrebbero fumare. Ma qual è il senso? Qual è il senso di questa legge? Nel senso che finché si intende la minore età, è una questione che lo Stato decide che quando uno è minore non può attentare alla propria salute, non conosce tutti i rischi. Ma dai 21 ai 30, qual è la motivazione per cui si può dire no, le sigarette si possono solamente comprare a 37 anni? Allora, da quello che capisco io, ci sono delle ricerche che dimostrano che se una persona non fuma entro i primi 25 anni di vita, poi è molto difficile che cada nella dipendenza da fumo. Per cui l'obiettivo principale sarebbe quello di aumentare l'età minima per comprare le sigarette a un punto tale per cui poi è molto difficile che venga la voglia, diciamo, di fumare. Quella di portarla a 100 anni ovviamente è un po' forse una provocazione, un po' proprio per dire sbarazziamoci delle sigarette del tutto. No, sono d'accordo che sia una provocazione, che appunto sono ogni tanto preoccupato di questa provocazione, nel senso che capisco benissimo la questione sul fumo, io sono un ex fumatore, ci mancherebbe altro, fa male fumare, non ci sono dubbi, capisco anche alle pensiline, perché sono piccole le pensiline, poi quando piove bisogna tutti essere schiacciati, quindi uno si accende la sigaretta, il bambino dà fastidio, magari qualcuno dà fastidio, ci mancherebbe altro. Però o è lecito o non è lecito fumare. Nel momento in cui è lecito fumare, vietare di fumare sul balcone, lo trovo francamente un po' folle. E addirittura arrivare a dire le si può comprare solamente a 60 anni, non comprendo molto, se non la questione della provocazione e della comunicazione. Assolutamente sì. Tenga presente comunque che qua già diciamo, la legge attuale alle Hawaii è già molto restrittiva per i fumatori, per cui non si può, cioè, sigarette si possono comprare solo a 21 anni, si può fumare solo che siano 21 anni, ma in generale non si può fumare appunto alle fermate degli autobus, non si può fumare all'interno di un perimetro di 10 metri da qualunque edificio, non si può fumare in spiaggia, non si può fumare in qualunque parco pubblico. A 10 metri da qualunque edificio, come viene calcolato? Cioè, i fumatori girano col metro? No. È un po' ridicola questa cosa, anche perché vabbè, insomma, poi il fumo circola, per cui è una cosa un po' diciamo un po' ridicola. Però questa cosa di 10 metri effettivamente è una cosa non solo delle Hawaii, ma in generale degli Stati Uniti. Infatti io quando mi sono trasferito in America, ho vissuto per tanti anni nel Massachusetts, all'epoca ero un fumatore e mi ricordo che dagli edifici qualche volta uscivano le persone a dirmi scusa, cortesemente puoi andartene in mezzo alla strada, qua. Nemmeno fosse una pestata. Poi vabbè, forse lì ci sono anche ampi spazi senza case, perché a Milano credo che praticamente, a parte al centro dei parchi, non esiste luogo a 10 metri di distanza da qualunque edificio, quindi nemmeno in mezzo alla strada. Non abbiamo strade per così fortuna larghe. Così larghe, cioè di 20 metri. Certo. Ma le multe sono salate? Allora, in teoria sì. Cioè, in teoria ci dovrebbe essere una multa di $500 per la prima infrazione e poi dai 500 ai $2000 per le successive infrazioni. Allora, detto questo, però, io devo ancora conoscere qualcuno che piglia una multa perché fuma, ecco. E io di fumatori qua se ne vedono pochissimi, però di persone che infrangono le regole, qualcuno ogni tanto se ne becca, qualche studente sul campus che fuma. Sul campus, lo ricordo, è proibito, sul campus dell'università è proibito dovunque fumare, ogni tanto ci sono degli studenti che fumano, però diciamo, l'applicazione delle leggi in tutta America in generale è abbastanza, tutto sommato, è abbastanza rilassata, ecco. Io non ho mai sentito di nessuno che piglia la multa. Eppure funzionano però, perché va detto che c'è anche un calo del consumo. Sì, allora, in realtà... penso che sia, oltre a questo, diciamo, oltre alle multe, ci sia il fatto che qua le sigarette costano carissime. Infatti io qua le sigarette alle Hawaii costano circa $10 al pacchetto, se non di più. A New York costano fino a $15 al pacchetto. Comunque, insomma, sono soldi. Verissimo. Qualche settimana fa ho comprato delle sigarette a Londra e le ho pagate 16 sterline. Mi sono veramente ho detto, ecco, così si smette subito, nel senso che diventa come comprare il brandy per una serata. Esatto. Esatto. Infatti il primo incentivo per me di smettere di fumare è proprio questo, che voglio dire, io i soldi non li trovo sulla pianta, per cui $12 per un pacchetto. E poi comunque, diciamo, il fumo in America è dappertutto estremamente stigmatizzato, per cui le persone che fumano sono comunque viste di malo occhio, le persone ti guardano male, ti dicono ah, ma perché fumi, è una cosa brutta, certo. E per cui è curioso, visto che sono sostanzialmente gli americani che producono sigarette, quindi che fumino tutti gli altri sono molto contenti, però non devono fumare loro, quindi è un concetto molto preciso. Preciso. Allora io vi devo fermare perché è il momento di dare spazio alla viabilità. Professor Torri, grazie molte e prosegua con il suo studio di fisica delle nuvole, già il titolo ci piace moltissimo. Molto. E quindi buon lavoro e alla prossima occasione, grazie ancora. Grazie a voi, buona domenica. Grazie mille. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora abbiamo il primo concorrente per indovinare il personaggio della settimana ed è Giorgio da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, fa una gran fatica, questo era l'indizio che abbiamo dato. Secondo lei chi fa una gran fatica? Fabio Fognini. Il tenista? Sì. Cosa ha fatto? Cos'è la notizia? Ci qual è la notizia legata? Perché oggi è ai quarti di finale a Melbourne e fa una gran fatica a raggiungere l'obiettivo. Stavo perdendo infatti nel primo set. Fa anche una gran fatica a rimanere tranquillo in campo, possiamo dirlo? Anche questo, il suo carattere è vero. Un po' vivace. È vero. Poi quando vince glielo scusiamo e glielo perdoniamo. Fondo la tecnica ce l'ha. È vero, la tecnica ce l'ha, il notaio inflessibile non era il nostro personaggio, ma siamo contenti di augurare tramite la sua chiamata il meglio a Fabio Fognini, italiano, ai quarti di finale agli Australian Open. Grazie molte.

che in quel momento era irregolare. E perché quindi, da noi non si fa? Provi un po' a indovinare. Sempre per la stessa ragione, perché sono oneri che pesano sul bilancio dello Stato, sulle casse dello Stato, e quindi, come dire, certo, bisogna trovare le risorse e il momento giusto per poter provare, chiaro, a fare questo genere di ragionamento. Ricordiamo allo Stato che se risolvessero il problema poi entrano 3 miliardi in più, quindi bravissimo, ci sta anche iniziare a spendere, visto che è lo Stato e non dovrebbe essere un'associazione a fine di lucro. Le giro solamente un consiglio di un nostro ascoltatore che dice specialmente le conoscenze psicologiche della vecchiaia, perché è la più difficile e importante. Mi sembra un'osservazione estremamente pertinente, e infatti tra le conoscenze della badante c'è anche la conoscenza degli elementi di base di psicologia dell'anziano e della persona con diciamo disabilità e delle principali tecniche di relazione e comunicazione. Perfetto, sembrava preparato, non so se questo invece ascoltatore no, che ha scritto in realtà è suo cugino, però ne siamo molto contenti. Grazie molte. Grazie mille. Grazie Alessandro Lupi, buona giornata, e continuiamo tra pochissimo a parlare di questo argomento con una esperienza sul campo in provincia di Parma. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mostly I'm an optimist, but my bad news is still persists. Going on about my problems, what's wrong with our world today? Allora, mentre gli ascoltatori si continuano a prenotare all'824 0024, io direi che dobbiamo dare un secondo indizio, dando così in sostanza una opportunità di riflessione a chi si è prenotato, magari. È molto giusto, è molto giusto. Il personaggio che stiamo cercando ha vinto di nuovo. Quindi, primo indizio, fa una gran fatica. Secondo indizio, ha vinto di nuovo. E non è Fognini, perché l'abbiamo già escluso. Bravissima. No, ha telefonato molto giusto, prima molto Giorgio, giusto, mi pare, l'abbiamo escluso. Io ringrazio tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri di buon compleanno, che era ieri, anche quelli che me li stanno facendo sui social, su Twitter, su Instagram e su Facebook. Grazie mille. Auguri. Grazie. Sei stata la prima, ma però sono stata l'ultima. In realtà ieri eravamo qui, ma io non sapevo che fosse il tuo compleanno, e quindi ma arrivo tardi. È un uso privatistico della radio, non vorrei che poi sembra che uno vuole farsi fare gli auguri. No, quindi non volevi. No, l'ho detto oggi per la questione del topo, capodanno, certo, del topo, esatto. Esattamente. Allora, dicevo prima che facciamo adesso un approfondimento sulla questione badanti in una realtà già esistente che precede la questione della patente di cui abbiamo parlato prima con Assindatcolf, vedi che ho imparato a dirlo, ci ho messo due giusto giorni ma adesso non lo sbaglio più, e andiamo per fare questo approfondimento a incontrare il nostro prossimo ospite, che è Aldo Spina. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente dell'Unione Pedemontana Parmense, perché lì da voi, grazie a voi e grazie insomma agli sforzi che sono stati fatti, esiste una badante di condominio, quindi è stata delle persone sono state formate, come abbiamo sentito prima, e adesso appunto prestano questo servizio di condominio, che comincia ad avere una certa risonanza anche all'estero, perché abbiamo letto di visitatori che arrivano dalla Svezia e dalla Francia per conoscere questa realtà. Ci dice un po' come funziona? Sì, allora si tratta di un progetto che comincia da alcuni anni alle sue spalle, è un progetto che è partito nel 2017, ma se posso avere qualche secondo, mi piacerebbe che fosse prima noto a tutti qual è il contesto all'interno del quale si inserisce, certo, il progetto. Questo è un progetto che coinvolge un distretto territoriale della provincia di Parma di 13 comuni. È una realtà che forse è nota a molti per alcune delle sue eccellenze enogastronomiche, perché è il territorio del prosciutto, il parmigiano reggiano, cioè in sostanza una realtà territoriale con un tessuto socio-economico fortunatamente ancora vivace e di diffuso benessere. c'è un tema che interessa quest'area, il fatto che dal punto di vista demografico siamo in presenza di una crescente, diciamo, di una crescita costante per quanto lieve di popolazione, ma soprattutto di un incremento significativo della popolazione anziana, oltre i 65 anni, e in particolare c'è un dato: la fascia di popolazione che cresce di più è proprio quella sopra gli 85, quindi i cosiddetti grandi anziani. Siamo ormai a oltre 3.000 persone su circa 75.000 abitanti del nostro distretto. È chiaro che si tratta quindi di numeri significativi, si tratta tra l'altro di persone in salute, questo è un dato estremamente positivo, nel senso che è ovviamente un indicatore di qualità della vita ancora una volta e anche di qualità dei nostri servizi sanitari. Ma arriviamo al progetto, perché comunque diciamo che stiamo invecchiando anche qui a Milano, stiamo invecchiando un po' in tutto il paese, Italia, quindi no, certo. Il problema lo conosciamo, non volevo ovviamente interromperla. No, però purtroppo no, dobbiamo ci interessano le soluzioni, meglio. Ci interessano le belle notizie. Per arrivare a dire che evidentemente questa situazione ci interroga sulla necessità di avere dei servizi, certo, nuovi. Nello stesso tempo è chiaro che molte delle nostre famiglie si organizzano da sole, quindi cercano risposte, cercano persone che li aiutino a poter gestire, come tradizione delle nostre parti, situazioni di questo tipo in famiglia. E questa realtà è una realtà che ci ha spinto a cercare di aiutare le famiglie da un lato, quindi mettere a loro disposizione delle banche dati, quindi degli strumenti di conoscenza delle assistenze familiari presenti, e dall'altro lavorare per qualificare progressivamente anche il servizio che queste persone offrono alle famiglie. Quindi una formazione diciamo per le badanti, che è molto in linea con quello di cui parlavamo 20 minuti fa con il presidente di Assindat Colf, esattamente. E però avete fatto un passo avanti, perché che cos'è la badante di condominio? Allora, completati questi percorsi di formazione, all'interno di questo gruppo di persone che si è attivato sul territorio, abbiamo individuato alcune di queste assistenti familiari che potevano essere messe a disposizione di alcune esperienze. Una progettualità l'abbiamo sostenuta direttamente noi come realtà pubblica, ed è una progettualità in cui all'interno di un edificio dove sono presenti 13 mini alloggi occupati prevalentemente da persone anziane, abbiamo una di queste figure che ha superato i corsi di formazione, la nostra Laura, che costantemente opera all'interno di questa realtà offrendo servizi diversi sulla base delle necessità che queste persone possono avere. Ma noi speriamo che abbia 13 stipendi, però, nel senso che voglio dire, occuparsi di 13 anziani non è facile, certo. Questo è proprio il tema centrale. Qual è l'idea che sta sotto questa esperienza? L'idea è che molto spesso succede che le nostre famiglie possono avere delle esigenze anche limitate e quindi tali da non arrivare a rappresentare una domanda sufficiente per giustificare la presenza di un professionista. Certo, molto perché, vero. Insomma, magari la mia famiglia può avere bisogno a volte anche soltanto di 2 ore alla settimana. Certo, o magari l'acquisto delle medicine piuttosto che di una cosa mirata, sì. Quello che tecnicamente viene definito servizio a bassa soglia, cioè a bassa intensità. E se noi riusciamo a sommare questa domanda, diamo senso alla presenza di un professionista. E quindi è esattamente quello che succede lì. Certo. Abbiamo la possibilità di una persona che appunto si rende disponibile per fare piccoli acquisti. Ma dorme lì? Dorme lì la badante? In questo momento non è necessario. Chiaramente se fosse possibile si potrebbe pensare anche a un'evoluzione di questo tipo. Certo, naturalmente sarebbe... questo è l'altro tema, cioè poter creare dei meccanismi di rete, di relazione che in prospettiva possano garantire anche risposte più significative. Certo, poi a questo punto direi 26 stipendi all'anno, perché fa anche il doppio turno, anzi il triplo turno se sta 24 ore su 24, e quindi siamo a 39 stipendi. Magari. Ovviamente questo è un altro tema, giusto sorridere, però purtroppo sappiamo che c'è un aspetto anche molto importante sul quale si è cercato di lavorare, dicevamo servizi che sono resi verso le famiglie ma anche verso gli assistenti familiari. È chiaro che operare in questo modo consente anche di lavorare nel pieno rispetto dei diritti delle persone, quindi contratti, certo, corretti, rapporti chiari, trasparenza, conoscenza effettiva di quello che viene fatto. Ma questo è un presupposto fondamentale anche perché questi rapporti siano rapporti sempre più robusti. Certo. Sì, certo. Ma questo l'avete fatto in diversi condomini o al momento è un condominio, allora, dove c'è Laura? Questa è l'esperienza che stiamo monitorando direttamente noi come realtà pubblica, perché ovviamente è un'esperienza che, dalla quale vogliamo cogliere anche degli indicatori di prospettiva, come dicevamo prima. In parallelo ci risulta che si stiano già sviluppando alcune esperienze a livello privato e stiamo seguendo invece un'esperienza assimilabile a quella di cui parlavamo prima su un'area più vasta, come esperienza di quartiere, per così dire, in un altro comune sempre nel nostro distretto, dove cominciamo a, diciamo, cercare di stimolare quello che accennavamo prima, cioè la possibilità che la domanda sia una domanda che va a sommare esigenze di persone che abitano anche non solo nello stesso condominio. C'è un aspetto, come potete intuire, che sta particolarmente a cuore a noi, che è anche quello di favorire appunto delle relazioni anche tra le famiglie. Non a caso alcuni dei partner importanti di questo progetto sono anche delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Ci aiutano molto a conoscere in maniera più raffinata anche la situazione delle varie realtà. Certo, e quindi si fa una rete virtuosa di, esatto, di persone che concorrono per lo stesso obiettivo. Allora, io la ringrazio molto, Aldo Spina, ricordo, è presidente dell'Unione Pedemontana Parmense, dove si sperimenta tutto questo, ma è una sperimentazione già avanzata, quindi guardata con interesse anche dall'estero, ma si potrebbe banalmente guardare dall'Italia questo tipo di esperienze. Se già si libera, no, se si libera uno dei 13 piccoli appartamenti, io lo prenoto, esatto, quasi io vorrei prenotarlo. Che comunque non o se sono ne fanno altri 13, no, diciamo, esatto, c'è tempo, possiamo costruirlo, possiamo partecipare. Grazie molte, buona giornata. Grazie. Allora, abbiamo due ascoltatori per il quiz e vedo quindi comparire Emilio. Buongiorno Emilio. Buongiorno a lei. Com'è? Pavia di Rimini, PV Rimini. Provincia di Rimini. Cattolica. Ecco, provincia, perfetto, di provincia di Rimini. Ci eccoci dica qua tutto. Chi è secondo lei? Secondo me è Federica Brignone. Federica Brignone, tutti sportivi, fa una gran fatica, ha vinto di nuovo, lei si collega alle ultime... Ci dica, no, la notizia, ce la dica lei? Beh, guardi... perché ieri ha vinto la Cutrone, però è la prima volta che vince, perciò non ha vinto di nuovo, è la prima volta che vince. La Brignone ha vinto di nuovo. Ah, vede, perché a noi ci interessa sempre il ragionamento che fate, siamo sempre molto curiosi. Gli italiani che hanno vinto questa settimana sono due, la Federica Brignone e la Cutrone. La, sì, Cutrone, giusto, è la prima volta, poverina, perché si è fortunata, la Brignone invece... sono parecchie volte che vince. È chiaro. 13 o 14, qualcosa del genere. Non so se ha sentito il responso del nostro notaio, che purtroppo è stato ignorato. È stato ignorato e quindi, diciamo, piccato replica. E giustamente, purtroppo, grazie, non era lei, lunga, ma grazie di aver chiamato e grazie di aver ricordato le nostre sciatrici. Salvatore, buongiorno. Salvatore da buongiorno. Catania, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Chi è il personaggio? Beh, secondo me è Sebastian Kurz. Sebastian Kurz, quindi ci spostiamo in Austria, giusto? Qual è la notizia che collega Sebastian Kurz questa settimana? Perché ha fatto fatica, ma ha vinto di nuovo. Quindi a fatica ha vinto di nuovo, si è riconfermato, ecco. Non era lui. Politico austriaco, leader del Partito Popolare. Ha fatto un governo green questa volta, ce l'ha fatta. Ha cambiato alleato, ma insomma è sempre lì. Grazie Salvatore, non ha indovinato. Grazie. Però era comunque una buona idea. Diamo il terzo indizio, magari ce la facciamo prima di chiudere. Che dici? Sì. Allora, fa una gran fatica, ha vinto di nuovo, ma in realtà non è uno, sono tanti. Sono tanti. È perfetto, ho lasciato il silenzio perché adesso tutti dicono: ah, ho capito. Vediamo un po'. Dopo la viabilità, tra poco. Si può fare. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo singolo azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E questa settimana il premio L'altro pianeta lo conferiamo ad Hong Kong. Cioè, capito, da dove ti faccio passare? Dalle Hawaii ad Hong Kong. Questa oggi puntata è veramente internazionale. Verissimo. Allora, perché Hong Kong? Perché a Hong Kong risiede Valentina Giannella, che con Lucia Esther Maruzzelli è l'autrice di un libro che si intitola Green Nation Revolution. Buongiorno Valentina. Buongiorno, buongiorno a voi, buona domenica. Buongiorno. Allora, cosa mi è piaciuto di questo libro ed è il motivo per il quale appunto abbiamo deciso di attribuire a Green Nation Revolution il premio L'altro pianeta? Mi è piaciuto che finalmente non c'è solo la teoria green, ma c'è anche la pratica, cioè ci sono le università. Vuoi fare questo tipo di studi? Ecco le università. E che tipo di lavori ci sono? Questo, questo, questo. In maniera più pratica rispetto a tanti altri volumi che abbiamo visto. Com'è che vi siete indirizzate, no, su questo, come ci siete arrivate? E tra l'altro voi due state ad Hong Kong, quindi state lontanissimo rispetto alla vecchia Europa. Sì, beh, siamo a Hong Kong, ma come con un po' di cuore ancora qua? Col cuore ancora lì, ma sai, a stare lontani per tanti anni, ormai sono 7 anni che viviamo a Hong Kong, ti senti sempre più vicina al resto del mondo quando lasci il suo paese per così a lungo, cioè una, è come se si rinforzassero i legami in qualche modo, e questo punto di vista lontano ci ha fatto capire anche in base alle ultime notizie, anche in base a quello che è successo ai Fridays for Future, a Greta, che ha creato questo grande movimento internazionale, insomma, ci ha fatto capire che in realtà i giovani, i ragazzi delle nuove generazioni, i teenager, hanno una prospettiva globale, sia dal punto di vista dello studio, della carriera, ma anche dell'impegno per guarire il pianeta. E quindi questo punto di vista globale ci ha fatto chiedere: ma i nostri figli cosa vorranno fare da grandi, che sono così preoccupati di quello che sta succedendo al nostro pianeta? E abbiamo cominciato a parlare con questi ragazzi, i ragazzi italiani che vivono all'estero, ragazzi italiani che vivono in Italia, ragazzi che hanno letto il primo libro che è uscito l'anno scorso. Sì, perché il primo libro era più specificamente, esatto, dedicato, no, alla comparsa, esatto, sulla scena di questa ragazzina. Sì, al cambiamento climatico spiegato ai giovani. Quello nasceva con l'idea di cercare di spiegare, utilizzando le fonti primarie, che sono quelle dell'IPCC, che è il pannello intergovernativo sul cambiamento climatico, prendendo quindi i dati dalle fonti primarie, traducendoli in un linguaggio comprensibile per i più giovani e spiegare proprio l'ABC del cambiamento climatico. E da questo libro abbiamo avuto un grandissimo riscontro di lettere di ragazzi che volevano sapere come possiamo fare noi per cambiare veramente le cose, perché la chiave per non essere, per curare il pessimismo, è quella del fare, cioè quello di mettersi, di rimboccarsi le maniche e dire che cosa ecco, avere il potere di cambiare le cose, datemi il potere di cambiare le cose, si può fare, direi così, esatto. Lo riassumerei con si può fare. Esatto, si può fare, e si può fare, e per la prima volta nella storia questa generazione non è una scelta, come dire, magari come la nostra, che era un pochino più di volontà, di volontariato, di capire che era importante, che quindi a parte le nostre normali professioni possiamo investire il nostro tempo nel far del bene al pianeta. Per loro, per la prima volta, questa cosa può essere addirittura un motivo di investimento in una carriera brillante, perché ci sono in tutte le industrie, in tutti i settori, delle posizioni chiave, importantissime, necessarie, che sono quelle che fanno andare avanti l'economia secondo nuovi principi e secondo un principio di sostenibilità che è necessario per curare il pianeta. Quindi precisamente, loro per la prima scusa se ti interrompo Valentina, volevo leggere qualche titolo, diciamo, dei capitoli, ad esempio c'è appunto quello dedicato alle start-up e poi agricoltura, acqua, riciclo, energia rinnovabile, è molto così specifico, ecco, e dettagliato, e dovrebbe far venire, noi ci auguriamo, voglia di mettersi appunto veramente a lavorare e cambiare le cose. Però tu sei anche a Hong Kong e noi oggi leggiamo grandi notizie che riguardano anche Hong Kong, sia per quello che riguarda le proteste, sia per quello che riguarda l'influenza. Volevo così approfittare di te un attimo per avere un piccolo spaccato di quello che è la vostra realtà. Voi vi occupate, avete un'agenzia di stampa tra l'altro con Lucia, quindi dovete necessariamente stare anche su quello. Sì, noi siamo, come dire, un po' alla finestra, nel senso che Hong Kong è in questo momento fortunatamente ancora una delle città non molto colpite dal coronavirus. Ci sono di pochi minuti fa il sesto caso confermato, non c'è nessuna vittima. Il problema è che metà della popolazione di Hong Kong è tornata a casa, nel senso dai propri familiari d'origine nel mainland China per il Capodanno cinese. Certo. Oggi è il terzo giorno del Capodanno cinese e quindi da sabato praticamente la città si è svuotata letteralmente, perché come tutti gli anni le famiglie si riuniscono per celebrare quello che è l'evento festivo più importante dell'anno. Il problema è, siamo un po' col fiato sospeso, perché il problema sarà il ritorno, e Carrie Lam, che è la governatrice di Hong Kong, ha già dichiarato le scuole sospese fino al 17 febbraio, guarda caso sono i 14 giorni di incubazione necessari a valutare i primi sintomi di questa nuova influenza. Quindi, come dire, finito il Capodanno cinese, rientrati tutti, aspettiamo due settimane prima di riaprire le scuole per vedere quali sono le conseguenze di questo esodo che c'è stato. È una situazione, strana. Sì. È una situazione strana, siamo letteralmente col fiato sospeso, nel senso che non puoi neanche andare troppo in giro a respirare, perché abbiamo tutti le mascherine e cerchiamo di evitare. Infatti noi ci siamo preoccupati quando ha detto noi stiamo alla finestra, ci siamo preoccupati, state alla finestra ma all'interno con la finestra chiusa, immaginiamo. Ma guarda, paradossalmente l'esterno è più salubre, perché sono i luoghi chiusi che sono quelli proprio da evitare, per cui, per dire, in questo momento noi siamo a casa, abbiamo deciso di non viaggiare per questo Capodanno cinese, vista anche la situazione, e i miei bambini sono fuori in giardino a giocare all'aperto, perché altrove. Certo. Valentina, ti dobbiamo salutare, grazie molte, grazie di tutto, grazie a voi. Green Nation Revolution è il volume di cui abbiamo appena parlato con una delle autrici, Valentina Giannella. Diamo il benvenuto ad Angelo da Roma, forse riusciamo a sentire qualche concorrente per il quiz. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Allora, chi è il personaggio? Ho fatto un po' di spulciamento su internet e mi sa che sono fuori strada. Ho cercato conferma alla risposta che aveva dato la vostra collaboratrice al telefono. Vabbè, ci ma dica. Non so uno se che fatica tanto e che vince molto, pensavo di averlo sentito durante un'intervista di Milan, è Alex Zanar, però mi sa che sono fuori strada. Pronto? Sì. Stavamo aspettando il notaio. Esatto. No, non è la risposta esatta. Non è la risposta esatta. Ma qual è la notizia legata ad Alex Zanardi? Ma una delle sue vittorie. Perfetto. Sì. Comunque vince non è, sempre. Non è l'ora, ma la ringraziamo molto. Vincenzo da Genova, velocissimo, ci dica che dobbiamo chiudere e salutarci. Buongiorno. Io direi il Milan, perché avete detto sono in tanti, ha vinto a fatica di nuovo. Ma non era nemmeno il Milan, e quindi lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? No, lo mettiamo su Facebook. Va bene, andate a controllare Facebook, perché non bello. Abbiamo tempo, se no qua Carmelo Lauricella in regia ci toglie l'audio, ci toglie il microfono. C'è oggi Laura Vanossi in assistenza, come sempre dobbiamo ringraziare Danilo Di Trani, Edoardo Lavezzari, Andrea Piana. Da Laura Bettini, alla prossima settimana. E da Carlo Gabardini, anche alla prossima settimana, sabato alle 8:30. Si vota fino alle 23 in Calabria e in Emilia Romagna. Si può fare.